La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.30, primi 30 secondi, in diretta da Milano, gli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast, e vi dice subito che l'argomento della trasmissione è dedicata ai Romani, e i Romani perché è un libro allo spunto, quindi non parleremo, non ci sono candidati alle elezioni, non ci sono, su questo vi state formando la vostra opinione, come giusto e legittimo, però io vi faccio da subito una domanda, se volete intervenire in diretta 800 24 0024 e il cellulare per gli sms lo sapete, ma lo ripeto 349 238 6666, perché il libro di cui parleremo e che è uscito questa settimana in libreria, che secondo me è una lettura complementare, io ve la suggerisco cari amici di Roma, in realtà serve anche a tutti i non romani per farsi un'idea delle condizioni della città e un resume di quello che è avvenuto, però ovviamente a voi che dovete scegliere, farvi un'idea su che sindaco votare, se ancora non vi siete fatti un'idea precisa fino a questo momento, o magari non avete ancora deciso se votare o meno, è utile, molto utile. Questo libro è scritto da un giornalista che in realtà non è solo un giornalista, perché scrive con verve letteraria, e che ha scritto un libro il cui titolo è Disastro Capitale, Roma al bivio. E prima di farlo parlare del libro, la domanda che voglio farvi cari ascoltatori è questa: la tesi centrale di questo libro, rispetto alla quale chiedo una vostra opinione, è la seguente, molto sintetica, quindi nella mia volontà di trasferirla e trasporla in una domanda a voi, cioè che dalla crisi terribile, inutile usare un altro aggettivo, di Roma amministrativa, delle sue finanze, della sua efficienza, dei suoi servizi pubblici, buche, servizi e così via, molto malaffare, molta corruzione, più e prima che dalla rigenerazione della politica, di un sindaco all'altezza, di partiti che si devono ricostruire, nasce e ci potrà essere, vista la gravità e il rilievo dei guai che bisogna affrontare, solo in presenza, o per meglio dire, soprattutto in presenza di una grande spinta civica dal basso, che richiede innanzitutto fiducia rispetto alla disillusione. Secondo, convinzione che valga la pena impegnarsi dal basso, invece che dire ma tanto è tutto inutile, figuriamoci, hanno spogliato Roma, l'hanno ridotta così e non saremo certo noi a poterla cambiare. Ecco, a questa tesi di fondo, e cioè che sono i romani dal basso che devono impegnarsi nella creazione di una... Nel libro c'è un passaggio in cui a un certo punto... prendendole dalla bocca di un sociologo, si descrivono tre comunità che sono proprie di ogni, per così dire, agglomerato urbano, di ogni corpo civile, no? Del paese, più o meno vasto. C'è una comunità della cura, cioè di persone che attraverso il volontariato, l'associazionismo, l'impegno civile di una parte del proprio tempo costituiscono una trama e l'ordito di una città che non aspetta che sia solo la politica dall'alto a risolvere i problemi. Comunità della cura. Poi c'è una comunità operosa, cioè di persone che decidono, oltre alla prima sfera di impegno, di averne anche un'altra, che non è direttamente l'impegno nell'amministrazione, nella politica, ma è la parte nella rappresentanza di professioni, imprese di ogni tipo e così via, per costituire un'interlocuzione, un contraltare con proposte precise che incalzino la politica. E poi c'è la comunità del rancore, cioè la comunità del rancore è quella che quando le cose vanno male, ci sono crisi pesanti, esplode un intero quadro politico come a Roma, trasforma la sua disillusione, la sua sfiducia in paura, e questo può radicarsi nella paura per la bassa sicurezza nella città, per gli immigrati, per la bassa qualità abitativa, per le periferie, eccetera, eccetera. E la comunità del rancore che a quel punto crede, o meglio, premia soprattutto chi grida di più e promette sconquassi. Allora, la questione che vi chiedo io è: voi ci credete e vi impegnereste, se già non vi impegnate, per ricreare la comunità della cura e la comunità operosa a Roma, dal basso, al di là della scelta politica che farete col sindaco, che ognuno di voi legittimamente farà e che non tocca a me giudicare, come ovvio. Ecco, questa è un po' la tesi centrale di questo libro, almeno per come l'ho capito io. Quindi telefonateci all'800 24 00 24, anche per dire: no, caro Giannino, questa è una stupidaggine, perché non è che possiamo risolvere l'ATAC, l'AMA, i rifiuti, le buche, i topi, le ruberie, i bilanci disastrati e le tasse al massimo dandoci da fare noi. Può essere che voi la pensiate così, e allora però ditecelo, 800 24 00 24. Allora, l'autore del libro, che vi ripeto, il titolo è Disastro Capitale Roma al Bivio, e con noi, grazie di aver ritagliato dai suoi impegni quotidiani questa mezz'ora per stare con noi, Mario Aiello, giornalista del Messaggero. Salve a tutti. Ho sintetizzato più o meno bene lo spirito del libro? Hai sintetizzato perfettamente. Io credo che si sia stabilito tra i cittadini e le amministrazioni varie a Roma un patto perverso in questi anni. Cioè, visto che molto poco i romani si sono aspettati dalle amministrazioni, molto poco le amministrazioni hanno dato, si sono sentite in dovere di dare, e quindi così si è arrivati così a una reciproca sfiducia, a una completa sfiducia. Questo secondo me è successo a Roma da anni e anni, mi chiedo si può spezzare questo patto perverso? Secondo me sì, ma non si tratta. Non so se vi ricordate quell'iniziativa di Alessandro Gassman con le scope, il fai da te, puliamo il marciapiede sotto casa dalle cacche dei cani, no? Non so se vi ricordate. Come no? Non si tratta di fare le cacche dei cani. Le deve togliere l'AMA, e innanzitutto non dovrebbero essere i padroni a fare in modo che quelle cacche rimangano per strada, marciapiedi, per strada. Quindi non è questo. Quello che serve è la fine dell'indifferenza rispetto a come si muove l'amministrazione e come si muove la politica. Cioè, un controllo partecipe della delega che è stata data. Noi abbiamo delegato troppo, poi ce la prendiamo con la politica, che sembra sempre piove governo ladro, cioè è sempre colpa della politica. Non è vero affatto che è sempre colpa della politica. La politica diventa mala politica quando non è controllata, quando non è partecipata, quando diventa autoreferenziale. Cioè, anche i problemi del malaffare a Roma, di mafia capitale e via dicendo, nascono da una scarsità di trasparenza che diventa, per certi aspetti, criminale, che può essere coltivata proprio in una sfera di isolata rispetto al controllo democratico dei cittadini. Questo è successo. Io ti faccio questa catena va spezzata. Ti faccio un'obiezione, anche perché non so come la pensi su questo. Essendo io un attento osservatore dei conti del perimetro pubblico, dei conti del Campidoglio, dei municipi e delle società partecipate e controllate, e non saprei dire quali sono peggio, certo, ci sono le due peggiori controllate municipali italiane, l'ATAC e l'AMA, che sono ai vertici da anni purtroppo della classifica Mediobanca delle peggiori municipalizzate italiane. Ricordo solo che la sola ATAC, con 11.800 dipendenti, ha avuto 4.1 miliardi di trasferimenti pubblici negli ultimi 4 anni, che ha bruciato e ci ha aggiunto altri 1.2 miliardi di deficit, per capirci. Quindi siamo proprio in condizioni da libri in tribunale, e quindi io faccio gli auguri al sindaco che arriva per metterci le mani, però siamo in condizioni così. Però, a proposito di trasparenza, e proprio per così dire di distinzione tra responsabilità della politica e cittadini e imprese, cioè il mondo privato, cittadini, imprese e terzo settore, ci metto dentro anche le cooperative, in una condizione nella quale tra Campidoglio centrale, quindi assessori, assessorati e dipartimenti, municipi e partecipata e controllata al 100% dal comune, quindi evitiamo, non stiamo parlando della CEA che è quotata, dove ci sono anche i privati, ma se sommiamo Campidoglio, dipartimenti, assessorati e municipi e controllati al 100%, a Roma, quindi al Campidoglio, rispondono ben 72 diverse stazioni di acquisto e appaltanti per gare, appalti e forniture. In ciascuna di queste c'è non uno ma più responsabili di procedimento, ciascuno dei quali gestisce gare su un particolare problema. Ci sono circa 300 persone quindi nell'amministrazione pubblica romana, che non sono neanche tutti dirigenti, a volte sono semplici funzionari, che poiché le 72 non rispondono coi propri dati a un sistema informatico centrale, gestiscono separatamente acquisti per pacchi di milioni e gare, possono decidere di frazionarne l'importo al di sotto dei limiti di legge, possono decidere di non farne nei tempi giusti e così si va con la protrazione delle vecchie concessioni fino a 20 anni. Allora, questo meccanismo, che è il cuore della mancanza di trasparenza della macchina pubblica a Roma, fa campare migliaia, ripeto, migliaia di imprese e studi professionali privati a Roma, che, virgola, il giorno in cui ci fossero gare trasparenti, digitalizzate, pienamente controllate, nel pieno rispetto della legge, secondo criteri quindi di convenienza quantitativa e qualitativa dell'offerta rispetto alla richiesta del bando, non avrebbero i margini per stare sul mercato e lavorare, e invece li acquistano coltivandosi il rapporto discrezionale con ciascuno di quei 300. Allora, questo descrive una collusività del mondo privato, perché io sono per il mercato, ma questo non è mercato. Questo significa che ci sono migliaia di privati, ripeto, piccole imprese di offerta di servizi, cooperative, come abbiamo visto negli immigrati, ma anche imprese che offrono non solo servizi, ma offrono acquisti, quindi manufatti, beni strumentali per gli uffici e così via, oltre a migliaia di professionisti, avvocati, commercialisti e così via, che campano e quindi sono interessati al mantenimento di questa opacità. Allora tu capisci che in questa condizione immaginare che la società civile dovrebbe essere capace di spaccarsi e dividersi tra chi vuole difendere questo sistema e chi dice no, cacchio, io ne pago i costi alle inefficienze. E a Roma questo è molto più grave che altrove, perché è un sistema molto più esteso che altrove. Io distingo brutalmente tra queste due parti del mondo privato. Secondo te, mi sbaglio, è una visione troppo pessimista, Mario? Hai perfettamente ragione, il quadro è perfetto. Al tuo quadro io aggiungo questo, che è talmente vero tutto ciò che quando noi sentiamo praticamente tutti gli attuali candidati sindaco di Roma che dicono dobbiamo arrivare alla creazione di una stazione unica degli appalti, è una bufala è una bufala macroscopica. Cioè non si riuscirà affatto da parte di nessuno ad arrivare a questa razionalizzazione delle cose, perché si scardinerebbe il sistema perfetto che tu hai appena descritto. Diabolico più che perfetto. È perfetto, è perfetto nel suo horror. Appunto qui. E la verità è che a Roma è mancato anche questo, cioè si parla sempre in maniera così terrorizzante dei gruppi di interesse, delle lobby, eccetera. Invece a Roma è mancato proprio una, e mancherà credo purtroppo anche in seguito, una trasparente gara tra... È una trasparente gara tra gruppi, esatto, di interesse, perché gli interessi organizzati sono il sale della, è chiaro, società, esistono, liberale. Certo, il problema è che devono confrontarsi in maniera trasparente. Non sono il sale della società medievale, esatto. Non sono il sale della società feudale. Quindi nel feudalesimo romano non abbiamo avuto, non abbiamo avuto questo. Ma io penso che in altre epoche, cioè io adesso tutto, di tutto posso essere sospettato, tranne di essere un cantore dei grandi sindaci della sinistra a Roma, però all'inizio la rottura rispetto alla Roma androttina, stiamo parlando degli anni 70, quindi tempi di Argan e così via, non stiamo parlando del PD delle correnti, purtroppo, come si vede nel processo di Mafia Capitale, immerse fino al collo in questo tipo di gestione che vi abbiamo descritto, ma all'epoca fu una rottura nella città e si vedeva nelle professioni, negli scrittori, negli intellettuali, eccetera, eccetera, molto marcati ideologicamente, ovviamente era una rottura tutta orientata verso il PC, però per 15 anni i giornali italiani hanno raccontato che a Roma si era creato un fermento di tipo diverso, poi è diventata questa roba qua nel tempo. Allora sentiamo al volo un ascoltatore che ci chiama innanzitutto sulla domanda, Giuliano da Roma. Giuliano, lei ci crede alla rivoluzione dal basso? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Io personalmente non ci credo a questa rivoluzione dal basso, perché reputo che a Roma noi romani in primis siamo l'esempio più lampante dell'egoismo dilagante nella società italiana, nel senso che io mi occupo da 8 anni circa, in maniera del tutto ovviamente volontaria, di una scuola di Roma, sì, da un punto di vista del consiglio d'istituto, e offro il mio tempo per migliorare un singolo elemento, esatto, della cosa pubblica. La famosa comunità della cura, quella di cui parlavamo prima. Esattamente, lo faccio con piacere, con voglia, con passione e quant'altro. Beh, io mi scontro quotidianamente con genitori come me, che le istanze che mi mettono davanti sono esclusivamente istanze legate alla piccola sfera del proprio figlio. Nel senso che a Roma in particolar modo io credo che il concetto di bene pubblico venga vissuto come limite alla libertà privata e quindi come cosa da dovere in qualche modo approfittarne. Aspetti, perché c'è nella prima convinzione ci può essere una cosa positiva, anch'io la penso così, che bisogna stare molto attenti al bene comune rispetto alla libertà privata. Invece se poi si traduce in quello che dice lei, cioè nell'approfittarne, beh no, perché a quel punto, come ovvio, non si tratta di difendere spazi di libertà attiva, si tratta semplicemente di accrescere le esternalità negative, cioè i costi pubblici per trarne vantaggio. Però Giuliano ci dice... l'esperienza concreta non mi porta a essere molto fiducioso. Un minuto di informazione sul traffico e torniamo con Mario Aiello e le vostre telefonate. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Stiamo traendo spunto da un libro che è uscito questa settimana, lo trovate in libreria, si intitola Disastro Capitale, Roma al bivio, e con noi Mario Aiello, giornalista del Messaggero. Sono 180 pagine che si leggono di filato. La tesi del libro è esposta all'inizio, ripresa alla fine, quella del fatto che non basti un, tra virgolette, presunto miracolo della politica rispetto a come si è ridotta a Roma con il malaffare, ma ci debba essere una scintilla dal basso, cioè una reazione dei romani che tornino a esercitare diritti in maniera attiva, controllo, azione civile dal basso e così via, perché altrimenti è molto complicato uscire dai guai. E su questo vi ho chiesto, abbiamo scritto una prima telefonata, sentiamone anche un altro paio. C'è Giorgio che ci chiama da Verona, prego. Sì, salve. Salve. Buongiorno. Beh, io sono d'accordo sul fatto che bisogna rimettere la gente al centro della politica, anche perché la popolazione crede che la politica non è più affari suo, e invece ci governa la vita dalla mattina alla sera. L'eccesso di delega di cui parlava Mario Aiello, sì. Sì, ma io rimetterei i comuni al centro, non solo il comune di Roma. No. Io sono dell'idea... Io penso che istituzionalmente bisognava fare una scelta con questa riforma della Costituzione, cioè dare vera, piena autonomia tributaria ai comuni, che sono i servizi di prossimità sociale. Io li avrei anche accorpati brutalmente, perché 8.100 non ha nessun senso, quindi c'è una dimensione al di sotto della quale non ha senso che restino amministrazioni separate. Però io sono favorevole a quello che dice, bisognava dare potere pieno ai comuni e limitare, posso dire, la gestione, al di là della sanità, solo indirizzi e niente gestione. Però peccato che la politica da questo punto di vista non ci abbia sentito proprio. Sentiamo Carmelo da Roma, prego Carmelo. Sì, buonasera, io sono piuttosto pessimista che si possa risolvere il problema di Roma, perché gli interessi sono così... Sono pochi, sono tanti, al di sopra della comunità. che c'è poco da fare fondamentalmente. Io faccio solo un esempio, il mio lavoro è lavorare, è fare l'assistenza ai ragazzini nelle scuole medie. Sì. Io sono il classico AEC, assistente educativo. Assistenza educativa, sì. Per una cooperativa, ovviamente. Sì. E quando provo a fare più di quello che per contratto devo fare, io vengo richiamato. Ah. Io vengo richiamato, vengo rimproverato, perché faccio più di quanto è dovuto. Sconfortante, me ne rendo conto, Carmelo. Davide da Vicenza, che pensa? Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Ma io faccio delle riflessioni girando, faccio l'agente di commercio da 30 anni, quindi mi muovo in Alta Italia. È difficile gestire città di 800.000 abitanti, un milione, come può essere Torino, piuttosto che Firenze, che ne ha ancora meno. Quindi pensare di gestire, come dire, correttamente una città, una metropoli come Roma, diventa veramente complicato. Bisognerebbe frazionarla, le dice. Esatto, potrebbe essere un'idea quella di suddividerla. Davide, però, anche qua, guardiamo secondo il mondo. Il mondo ci dice, mentre noi riempiamo il giornale, colpa nostra, e mi piglio la mia parte, noi vi raccontiamo sempre che c'è una grande concorrenza internazionale sui mercati internazionali di efficienza fatta dai sistemi paese. Non è vero. La grande concorrenza internazionale sui mercati globali è fatta da grandi aree metropolitane che proiettano nel mondo le specificità della loro attrattività turistica, formazione, capitale umano e così via, e il mix di economie territoriali, manifattura, offerta servizi, servizi finanziari. Il mondo va avanti così perché ci sono grandi aree metropolitane che hanno profondamente reingegnerizzato la loro maniera di gestire milioni e milioni di persone. Questo vale per Los Angeles, vale per Londra, vale per Chicago, vale per in Catalogna, intorno a Barcellona. Barcellona ha costruito sulla grande area metropolitana con un comitato strategico di tutti i privati del terzo settore, ha totalmente cambiato la maniera in cui il significato del vecchio alcalde, non è più il vecchio sindaco, è un progettista di proiezione nel mondo dell'intera Catalogna. Ecco, allora questa roba qua, secondo me, il mondo ci insegna che altrove si può fare e che noi non abbiamo un'idea di come, da dove cominciare. Abbiamo introdotto il nostro ordinamento le grandi aree metropolitane, le città metropolitane sono definanziate. E torniamo con Mario Aiello. Mario, ma tu invece sei più ottimista rispetto alle prime telefonate che abbiamo ricevuto, perché? Lo devo essere per forza, perché quando si tocca il fondo, più a fondo di quel fondo non si può andare. E quando si arriva a una sessione in cui un romano su due dice di non volersi recare alle urne, significa che quel fondo è stato toccato, non si può che risalire, e secondo me anche con delle piccole grandi così innovazioni come questa. Ora stavamo parlando, per esempio, perché i municipi a Roma, al contrario che a Londra, non hanno per esempio un'autonomia fiscale? Cioè, perché un posto come Ostia, che è di 300.000 abitanti, cioè è una media città, o mi sbaglio? No, no. Ecco, non può avere un municipio che raccoglie le imposte e le usa per quel territorio, prima cosa. Perché Roma non ha uno status di capitale come quello di Berlino o di Parigi, cioè non ha un diverso riconoscimento anche di tipo economico da parte dello Stato centrale? Perché? Cioè, non si possono fare queste cose. Sai Mario, no, che noi stiamo andando a una nuova Costituzione che riaccentra più che decentrare. Secondo me però non è giusto. Sono d'accordo con te, però purtroppo. Cioè, ci sono cose fattibilissime, quindi noi perché dobbiamo sempre sprofondare nella lagna, nella retorica lagnosa dello scetticismo romano? Ma perché? Cioè, mica non sono irredimibili, esatto, le città. nulla è irredimibile nella storia. No, anzi, Roma ha vissuto secoli di totale decadenza con greggi e poche decine di migliaia di abitanti residui e si è ripresa in maniera spettacolare più e più volte dai tempi dell'impero romano. È accaduto, cioè, quindi voglio dire, non si capisce perché, se deve essere accaduto nella storia, non si possa ripetere. Comunque, io vi invito davvero a leggere, perché serve a riflettere sulla scelta se andare a votare o meno e chi votare quando andate a votare, cari romani. Ma serve anche a tutti gli italiani a capire che il problema di Roma, guardate, è un problema nazionale, perché noi abbiamo dato 18 miliardi di euro di debito in gestione separata e c'è una rata di 500 milioni che versiamo come contribuenti a Roma, e guardate che il prossimo sindaco chiederà altri ripiani di debiti, perché è inevitabile rispetto allo squilibrio strutturale di quel bilancio. Io sarò tra quelli che dicono no, però sappiate, cari ascoltatori non di Roma, che la cosa ci riguarda, oltre a quella del vostro comune e della regione di ciascuno. Il libro si intitola Disastro Capitale, Roma al bivio. Grazie Mario Aiello, continuate con la 24, appuntamento alle 10 alle 12 domani in diretta con me e i compari dei Conti della Belva.